Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. De Rodesi è stato il mio medico, mi ha aiutato a guarire, ma mi ha regalato anche un grande insegnamento, che noi e le nostre malattie siamo la stessa cosa, ma che però ci si cura sempre, da tutti i nostri mali, del nostro corpo e della nostra mente. Grazie Umberto per tutte le volte che hai compreso e sostenuto. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il commosso saluto del sindaco di Milano, Beppe Sala, all'oncologo Umberto Veronesi. Oggi è stato l'addio laico, i funerali dell'oncologo a Milano, a Palazzo Marino, che è la sede del comune. Ne parleremo brevemente nel corso del riassunto della giornata, come sempre all'inizio, però poi ci concentreremo soprattutto sugli Stati Uniti nuovamente, visto che siamo a pochissimo, insomma, dall'elezione del nuovo presidente Donald Trump. Continuano le proteste, ci sono stati altri 200 arresti nelle manifestazioni di piazza e poi ci sono anche i primi intoppi da un punto di vista istituzionale, perché c'è stato per esempio il giudizio durissimo del presidente della Commissione Europea Juncker, che ha detto perderemo con lui 2 anni, non conosce il mondo e prima che lo giri tutto passeranno appunto almeno 2 anni, dice, perché in campagna elettorale a proposito del Belgio Trump avrebbe detto è un villaggio lì da qualche parte dell'Europa. E poi ci sono delle tensioni anche con Obama, che continua comunque il suo tour europeo, e lo staff di Donald Trump gli ha detto mi raccomando non prendere iniziative che siano in contrasto con quella che sarà poi la direzione del nuovo presidente Trump. Insomma, ne avremo cose da dire, poi ci occuperemo anche di un terribile caso di pedopornografia per fare più una riflessione generale. Ci sarà anche il meteo, come sempre, il venerdì, e poi per i vostri messaggi, le vostre osservazioni, le vostre domande c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp che è il 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. E a questo punto, come sempre all'inizio, andiamo a sentire che giornata è stata. Stati Uniti, primi intoppi per Trump. Il presidente della Commissione Europea Juncker afferma ignora il mondo, con lui perdiamo 2 anni prima che lo conosca. E intanto proseguono le proteste negli Stati Uniti con 200 arresti. Il decreto sul terremoto via libera all'operazione moduli abitativi al posto delle tende. Lunedì riapriranno le scuole ad Amatrice. Referendum scontro sugli italiani all'estero con le polemiche sulla lettera di Renzi e sul rischio brogli. Processo Pitrella, procura chiede 4 anni per Verdini, chieste 18 condanne, 9 anni e 6 mesi a Flavio Carboni. Ostia, arrestato un 40enne che abusava della figlioletta da 6 anni, producendo anche materiale pedopornografico. Pordenone, una donna rifiuta di farsi riconoscere togliendo il niqab e scatta una multa da 30.000 euro. La scomparsa di Veronesi, oggi a Milano i funerali laici per l'ultimo saluto al grande oncologo. È morto Leonard Cohen, il maestro della poesia e musica, se n'è andato a 82 anni. Cina, record di acquisti online per la festa dei singoli. In soli 7 minuti speso $1.5 miliardi sulla piattaforma di e-commerce Alibaba. Moi je crois que nous aurons 2 années de temps perdu jusqu'à ce que monsieur Trump ait fait le tour du monde qu'il ne connaît pas. Avete sentito, Juncker in francese ha detto io penso che passeranno almeno 2 anni prima che Trump, il nuovo presidente, faccia il giro del mondo, visto che non lo conosce. E quindi, dicevamo, ci sono le prime complicazioni istituzionali per quanto riguarda Donald Trump, mentre proseguono, come vi dicevo, in varie città degli Stati Uniti le proteste contro la sua elezione con circa 200 arresti, arrivano i giudizi pesanti che avete sentito da parte del presidente della Commissione Europea Juncker su Trump. Con lui perdiamo appunto 2 anni, il tempo che faccia il giro del mondo perché non lo conosce. E ha aggiunto anche Juncker, ci sono rischi di vedere gli equilibri intercontinentali disturbati sui fondamentali e sulla struttura. Quindi profondamente, secondo Juncker, si possono squilibrare gli equilibri internazionali. Nel frattempo il team di Trump ammonisce Obama, il presidente uscente, a non fare passi rilevanti in politica estera durante questa fase di transizione, perché potrebbe mandare segnali contrastanti. Poi Trump ha sentito la cancelliera Merkel, il presidente francese Hollande, promette a breve decisioni sul suo governo, quindi sulla sua squadra, mentre Obama richiama all'unità. Ed è notizia di poco fa che è stata revocata la presidenza della squadra per la transizione alla Casa Bianca che Donald Trump aveva affidato al governatore del New Jersey, Chris Christie. Quindi gli è stato revocato questo ruolo di comando. Adesso è il vicepresidente eletto Mike Pence a prendere le redini, così ha riferito il New York Times. E tra poco, come vi dicevo, torniamo a focalizzarci sugli Stati Uniti. Per quanto riguarda le reazioni finanziarie, Trump e anche l'incertezza sul referendum italiano fanno salire i rendimenti dei titoli di Stato. Chi auspicava una normalizzazione del mercato obbligazionario è stato accontentato. Per altri, le vendite che sono tornate a colpire i titoli di Stato preannunciano una tempesta che tanto auspicabile invece non è. In effetti colpisce l'impennata dei tassi registrata in Italia, dove il clima di attesa per il referendum del 4 dicembre si fa sempre più rovente. Il rendimento del BTP a 10 anni ha superato il 2%, livello che non vedeva da luglio 2015. Lo spread con il Bund tedesco è andato a 170 punti, non si vedeva questa soglia da agosto 2014. I BTP triennali in asta hanno registrato un rendimento dello 0,30%, un mese fa erano a zero, mentre ancora più violento, oltre mezzo punto, è stato l'aumento dei tassi sulla scadenza a 7 anni all'1,37%. L'elezione di Donald Trump ha scosso i mercati, ma in senso molto diverso rispetto ai timori della vigilia. La borsa ha messo in moto una poderosa rotazione settoriale, facendo riscoprire quei comparti da tempo trascurati, colpa delle banche, dalle cronache finanziarie, difesa, costruzioni e farmaceutici. Il mercato vive una fase in cui la variabile politica la fa da padrona e i mercati ballano. Sarà così per tutto l'anno prossimo in vista delle elezioni di Francia e Germania. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo ora alla manovra economica italiana, nella quale spunta la norma Airbnb con una cedolare secca al 21%. Novità in arrivo con la legge di bilancio. Spunta una tassa Airbnb per regolare, fra l'altro, con una cedolare secca al 21%, il mercato degli affitti brevi in strutture extraalberghiere di privati o intermediari online. E poi tetto ISE per i bonus mamme e asilo nido, multe da 30.000 a 180.000 euro per i bagarini online. Queste alcune delle correzioni previste dagli emendamenti depositati nelle commissioni della Camera. Scaduto oggi il termine per la presentazione delle modifiche alla legge di bilancio scritta dal Governo, parte ora l'iter parlamentare. Fra le tante correzioni inoltrate da partiti e governo ci sono anche una norma contro l'evasione del bollo auto, l'ipotesi di innalzare da 210 a 600 euro le detrazioni per le attività sportive dei figli e 3 giorni di congedo obbligatorio per i papà invece dei 2 previsti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è il decreto sul terremoto che è stato firmato poco fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riguarda i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, entrerà in vigore appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Interventi accelerati per affrontare le conseguenze delle nuove scosse di terremoto in Valnerina. È affidato al Dipartimento della Protezione Civile l'acquisto di container che sulla base delle indicazioni dei comuni saranno poi installati. Per gli edifici con danni lievi saranno i soggetti interessati a procedere al ripristino dell'agibilità dopo la presentazione di un progetto firmato da un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura. Quanto ai danni al patrimonio storico e artistico, i comuni, secondo il decreto, effettueranno direttamente gli interventi indispensabili, dandone comunicazione al Ministero dei Beni Culturali. Misure urgenti sono previste anche per consentire la prosecuzione delle attività didattiche. E buone notizie sotto quest'ultimo profilo arrivano da Amatrice, dove lunedì riapriranno le scuole di ogni ordine e grado. E poi c'è la consultazione referendaria oramai vicina, ammesso per il 4 dicembre il voto fuori sede per chi, a causa del sisma, è temporaneamente in un comune diverso da quello di residenza. Annalita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stavamo appunto parlando del voto per quanto riguarda le popolazioni nelle zone del sisma. Allora, legandoci a questo argomento, parliamo di referendum costituzionale che continua ad animare il dibattito politico. La Lega si prepara alla manifestazione di Firenze. Per Matteo Salvini, se vince il no, il premier Matteo Renzi si deve dimettere. Secondo me i no vinceranno, non occorre uno scienziato ad intuirlo. Domani la piazza di Firenze è aperta. Chi non ci sarà e preferirà stare a casa, penso a una parte di centrodestra di Forza Italia timida, tentennante, timorosa, che magari pensa al passato e pensa agli inciuci, si autoesclude da qualsiasi collaborazione futura con la Lega. Il Movimento 5 Stelle denuncia invece possibili brogli figli all'estero. Il movimento prende anche spunto dalla lettera che il premier Matteo Renzi ha inviato agli italiani all'estero per le ragioni del sì, ma secondo Laura Garavini del PD non c'è nulla di straordinario nella missiva perché Renzi e il PD si muovono nel pieno rispetto dei regolamenti dei partiti politici. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la politica dell'amministrazione di Roma Capitale, la sindaca Raggi ha annunciato che è stato sbloccato il salario accessorio per i dipendenti. Fino a 300 euro in più a testa in busta paga è già da novembre. Un bel sospiro di sollievo per 23.000 dipendenti comunali. Il Campidoglio ha infatti sbloccato l'annosa questione del salario accessorio, la parte aggiuntiva e non fissa di retribuzione. Una grana che viene da lontano, quella relativa al salario accessorio pagato in passato dal Comune di Roma ai propri dipendenti, circa 340 milioni di euro erogati dal 2008 al 2013 durante l'amministrazione Alemanno, che erano stati però contestati dagli ispettori del Ministero del Tesoro e dunque in seguito bloccati per timore di denuncia di un danno erariale, una vicenda segnata da proteste, mobilitazioni e un lungo braccio di ferro tra dipendenti e amministrazione. Ora lo sblocco del pagamento del conguaglio 2015 già nella busta paga di fine mese. Verranno utilizzati i risparmi del piano di rientro per recuperare i bonus irregolari del passato. Una mina disinnescata dunque. I sindacati erano pronti allo sciopero, ora invece cantano vittoria e la Raggi assicura l'erogazione sarà garantita anche per il futuro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il processo sulla P3, la procura di Roma, al processo sulla cosiddetta P3, ha chiesto la condanna per 18 imputati, tra loro c'è anche il senatore Denis Verdini, per il quale sono stati chiesti 4 anni, e l'uomo d'affari Flavio Carboni, per lui 9 anni e 6 mesi. Per i magistrati esisteva un comitato d'affari segreto che puntava a influenzare e condizionare gli organi costituzionali. I 4 imputati sono accusati di associazione per delinquere e violazione della legge Anselmi sulle società segrete. La cronaca adesso: un uomo di 42 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Ostia con l'accusa di aver abusato della propria figlia fin dall'età di 5 anni. Ora la ragazzina ha 11 anni e avrebbe realizzato anche materiale pedopornografico. Nella sua abitazione la polizia ha trovato DVD, riviste pedopornografiche e 3 giocattoli della bambina. Visionando e analizzando gli oltre 500 DVD con immagini pornografiche, gli investigatori hanno scoperto che la protagonista principale di un filmato era proprio la figlia. Di questo torneremo a parlare più tardi in Effetto Notte. Altra notizia di cronaca: una donna di origini albanesi è stata condannata a pagare una multa di 30.000 euro per essersi rifiutata di togliere il velo islamico per farsi riconoscere. 4 mesi di arresto convertiti in 30.000 euro di multa è quanto ha disposto il GIP di Pordenone Alberto Rossi nei riguardi di una donna di origini albanesi e di religione musulmana che 20 giorni fa si è presentata in consiglio comunale coperta completamente da un niqab, un velo integrale che lascia intravedere soltanto gli occhi. Nonostante la richiesta reiterata del sindaco Antonio Di Bisceglie e del PD di togliere il velo per farsi riconoscere, la donna, che vive in Italia dal 2000 e da qualche anno ha acquisito la cittadinanza italiana, era rimasta sulle proprie posizioni fino a quando è stata fatta allontanare dall'aula dalla polizia. Secondo il GIP avrebbe violato la legge 152 del 75 che disciplina il comportamento delle persone nei luoghi pubblici e l'obbligo di riconoscimento del volto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora i funerali di Umberto Veronesi che si sono tenuti questa mattina a Milano per l'ultimo saluto all'oncologo scomparso all'età di 90 anni. Si apre sulle note della sonata Al chiaro di luna di Beethoven, eseguita dal figlio Alberto, pianista e direttore d'orchestra, il funerale laico di Umberto Veronesi. Tanti i milanesi venuti a rendere omaggio al professore, nonostante la pioggia. Troppi per entrare tutti nella sala Alessi di Palazzo Marino, sede del comune. In centinaia sono rimasti in piazza alla Scala, davanti al maxischermo. Ci ha insegnato a convivere con la malattia, ha detto il sindaco Beppe Sala, che nel ripercorrere la storia di questo vero milanese, come l'ha definito, non è riuscito a trattenere la commozione. Grazie Umberto per tutte le volte che hai compreso e sostenuto il nostro dolore. Commozione a cui non hanno resistito nemmeno il figlio Paolo, che ha raccolto l'eredità del padre alla guida del reparto senologia dello IEO, e la leader radicale Emma Bonino, che di Veronesi ha ricordato soprattutto le tante battaglie in nome dei diritti civili, tra questi il diritto a una morte dignitosa, quella che ha rivendicato fino all'ultimo giorno, rifiutando il ricovero. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora una notizia che arriva dalla Cina, lo shopping da record c'è stato per la festa dei single, 1,5 miliardi in 7 minuti spesi sulla piattaforma e-commerce Alibaba. 11 novembre, scritto in cifra 11-11, cioè 4 volte 1, è il simbolo dei single in Cina, che equivale al 15 febbraio festeggiato in Occidente dopo San Valentino. È una di quelle feste trasformate in occasione di business e da 7 anni la mega piattaforma cinese di e-commerce Alibaba lo ha scelto per mettere online offerte e sconti straordinari che di solito mandano in tilt il sistema postale. In soli 5 minuti dopo la mezzanotte i cinesi hanno speso $1 miliardo sulla piattaforma, oltre 5 miliardi dopo un'ora, quasi 12 a mezzogiorno, e le previsioni per fine giornata puntano alla cifra record di 22 miliardi. Occidentali e soprattutto americani, grandi brand che faranno il tutto esaurito, e americane sono anche le star che Jack Ma, il fondatore di Alibaba, ha voluto accanto a sé per la mega festa che ha inaugurato il Single Day 2016. Scarlett Johansson, Kobe Bryant e David Beckham tra gli altri. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere, il lutto nel mondo della musica con la morte di Leonard Cohen, leggendario artista e cantautore canadese. Con profondo dolore comunichiamo che il leggendario poeta, cantautore e artista Leonard Cohen è morto. Abbiamo perso uno dei più prolifici visionari. Una commemorazione si terrà a Los Angeles fra qualche giorno. La famiglia richiede la privacy nel suo dolore. Così la Sony Music Canada ha diffuso la notizia della scomparsa di Leonard Cohen sulla pagina Facebook del grande musicista. Nessun dettaglio né sul luogo né sulle cause della morte. Leonard Norman Cohen era nato il 21 settembre del 1934 a Westmount in Quebec, da una famiglia di origini ebraiche, e aveva imparato sin da ragazzino a suonare la chitarra, mentre leggere García Lorca lo aveva avvicinato alla poesia. È stato uno dei cantautori più influenti degli anni 60 e 70, a fianco di altri giganti come Bob Dylan e ad un'altra canadese, Joni Mitchell. Una carriera fenomenale la sua, durata quasi mezzo secolo, fino al suo ultimo lavoro uscito soltanto a fine ottobre di quest'anno, una sorta di testamento spirituale intitolato You Want It Darker. You Want It Darker. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo abbiamo completato il riassunto della giornata e poi dopo la viabilità, come sempre, cominciamo a scendere un po' nel cuore di alcuni argomenti in particolare. Ci dovremo concentrare ancora sugli Stati Uniti, ma tra poco cercheremo di raggiungere il nostro corrispondente, che potrebbe avere qualche problema all'inizio, quindi lo riprenderemo magari più tardi, e passiamo a un argomento invece di un altro tipo. Però già vedo i vostri messaggi su Trump. Per esempio Emanuele dice: caro Juncker, non vediamo l'ora di bere le tue lacrime davanti alla politica di Trump. Avete sentito prima Juncker, magari dopo ve lo faccio risentire. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le avete sentite le notizie principali, tra poco vi ricordo i titoli in primo piano, e poi per i vostri messaggi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per gli SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. C'è Giovanni da Treviso che dice: Roberta, bene così, se anche Juncker disapprova le elezioni di Trump, allora siamo sulla strada giusta. Questa è l'interpretazione di Giovanni. Mentre c'è un altro messaggio di Roberto, evidentemente a volte ci sono degli ascoltatori piuttosto bizzarri che non sentono improvvisamente, magari sentono mezza parola e si fanno le loro idee. Oppure io spesso consiglio, lo dicono anche nutrizionisti, non più di un bicchiere a pasto, specialmente se qualcuno lo regge male. Dice: quando la finirai con queste menzogne su Trump? Io ho detto delle menzogne su Trump, sono i titoli di tutti i giornali internazionali e italiani, e Juncker l'avete sentito con la sua voce, con il suo francese. Lo vogliamo risentire il Presidente della Commissione Europea che dice: con Trump rischiamo di perdere 2 anni perché non conosce il mondo, e finché fa tutto il giro del mondo passeranno questi 2 anni. Sentiamo, aprite bene le orecchie, quel Roberto apra bene le orecchie. Moi je crois que nous aurons 2 anni de temps perdu jusqu'à ce que Monsieur Trump e fait le tour du monde qu'il ne connaît pas. Forse Roberto non comprende il francese, io l'ho tradotto, e se non si fida vada a vedere sui giornali internazionali. A questo punto io vi ricordo, vi dicevo, i fatti principali se non avete acceso la radio puntualmente alle 21, e poi ci collegheremo più tardi con gli Stati Uniti, c'è un problema di linea adesso, invece parleremo tra poco di una bruttissima storia. Trump, l'affondo di Juncker ci farà perdere 2 anni. Tycoon Obama dice stop a nuove iniziative. Intanto ci sono manifestazioni di protesta nel paese. Per quanto riguarda la manovra economica, i primi proposte, i primi emendamenti, limiti ISEE al bonus delle mamme e poi al nido, aumento a 600 euro dello sconto per lo sport dei figli, ma anche innalzamento a 3 giorni per il congedo ai neopapà e una norma Airbnb per gli affitti brevi in strutture extra alberghiere. Questi sono alcuni punti della manovra, gli emendamenti. E poi il referendum è battaglia sugli italiani all'estero, polemiche soprattutto dopo la lettera di Renzi agli italiani all'estero e qualcuno teme il rischio brogli. Poi il processo della P3, la procura chiede 4 anni per Verdini, chieste 18 condanne, 9 anni e 6 mesi a Flavio Carboni. Mattarella che firma il decreto terremoto, via quindi ai moduli abitativi e i sindaci sono autorizzati alla messa in sicurezza. La priorità deve essere il rilancio economico. E poi un primario a Modena aggredito con soda caustica, rischia la cecità e teste in un processo, è stato ustionato lievemente anche il figlio. E poi la morte del grande cantautore canadese Leonard Cohen, il maestro della poesia in musica, scomparso a 82 anni. E parliamo adesso di un terribile fenomeno, come avete sentito parlare nei titoli e nella parte di ricostruzione della giornata, un fenomeno che è purtroppo molto più diffuso anche nel nostro paese di quanto si possa pensare, la violenza sessuale sui minori, per la maggior parte nei confronti delle bambine e spesso proprio all'interno anche delle mura familiari. Molto più frequente poi di quanto si possa pensare anche proprio il caso dei padri che agiscono violenza sessuale nei confronti delle bambine, delle proprie figlie. Il caso di cronaca, come avete sentito, vi dicevo, che ci dà oggi purtroppo lo spunto per tornare a parlare di questo argomento è questo caso di un uomo di 42 anni che è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Ostia con l'accusa di aver abusato della propria figlia fin dall'età di 5 anni, da quando la bambina aveva 5 anni, oggi ne ha 11, e di avere realizzato anche materiale pedopornografico. Infatti la polizia cosa ha trovato nella sua abitazione perquisendola? Ha trovato almeno 500 DVD, molte riviste pedopornografiche, 3 giocattoli proprio della bambina nella sua stanza e anche un fallo di gomma, e in uno di questi filmati la protagonista era proprio la figlia. Allora, io coinvolgo su questo caso Antonella Costantino, che è presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Buonasera, dottoressa Costantino. Buonasera a lei. Allora, dottoressa, al di là di questo caso terribile, io volevo fare con lei un ragionamento un po' più generale, no? Per esempio sulla casistica, perché io come giornalista che guardo costantemente tutto il giorno le agenzie che arrivano, in realtà nell'arco di un mese mi capita diverse volte di imbattermi in questi fatti di cronaca. Se noi dovessimo raccontarli sempre non basterebbe lo spazio. Secondo lei è effettivamente più diffuso oggi, meno diffuso, uguale al passato? Che ampiezza ne darebbe lei? Che misura ne darebbe? Ma purtroppo, per quello che ne possiamo sapere, è molto difficile andare a valutare se sia in aumento o in diminuzione. Verosimilmente il fenomeno di per sé è stabile. Quello che negli ultimi anni è successo è stato che c'è stato un aumento rilevante dell'emergenza del fenomeno, cioè del fatto che arriva alla denuncia, arriva alla cronaca, riusciamo a sapere che è successo e anche ne parliamo molto di più di quanto non succedesse qualche decennio fa, ma è difficile andare a confrontare il dato con periodi in cui il fenomeno non emergeva, evidentemente. Sempre al nascosto delle mura domestiche, però chiaramente non ne parlava nessuno. In questo caso, tra l'altro, per pura coincidenza, la polizia stava seguendo un'altra indagine, un'altra inchiesta, sono andati a perquisire questa casa e per puro caso è venuta fuori questa storia terribile. E questo ci conferma come ci sia una componente di sommerso che c'è sempre stata rilevante. E quindi è veramente difficile capire se stiamo vedendo una punta dell'iceberg maggiore rispetto a quella che emergeva una volta o se sia davvero il fenomeno di per sé che si modifica. Certo è che l'abuso sessuale sui minori e l'abuso sui minori in generale è un fenomeno molto rilevante e pesante per la vita dei bambini, perché implica un rischio poi per la loro salute mentale futura, altissimo, chiaro, come adulti, perché evidentemente è il trauma maggiore che un bambino possa incontrare, perché essere soggetto a violenze da parte delle persone che dovrebbero in qualche modo invece proteggerlo e instradarlo e facilitarlo nella crescita è veramente una cosa poi molto difficile da elaborare e digerire. Dottoressa Costantino, però allora in questo caso l'unico dato che abbiamo è che la bambina è stata affidata alla madre che era separata da 5 anni, quindi non si sa bene, sicuramente la madre abitava altrove, non si è accorta o si è accorta, non si capisce, però evidentemente no, se è stata affidata a lei. Però quello che le volevo chiedere è quali segnali appunto gli adulti potrebbero poter percepire l'altro genitore, di solito la madre o dei familiari o un insegnante, per accorgersi che qualcosa che non va sta vivendo questa bambina, questo bambino. Ma anche questo è abbastanza difficile, nel senso che i segnali sono purtroppo spesso specifici: cambiamenti, malesseri, pianti, regressioni, ipersessualizzazioni, che purtroppo negli ultimi anni sono diventati ancora più specifici, nel senso che la maggior parte dei bambini, però soprattutto dei ragazzi oggi, hanno un accesso in un modo o nell'altro a contenuti sessuali a livello di siti internet, scambi, materiali in circolazione infinitamente maggiore di quello che avessero 10 o 20 anni fa, per cui diventa molto più difficile, riescono, come dire, a bypassare facilissimamente come gli elementi di controllo che la famiglia cerca di mettere. Ma quindi nel contempo diventa anche più difficile capire l'origine poi di questi loro comportamenti, se è dovuto appunto a violenza oppure perché sono bombardati, si immergono attraverso il web anche in questi contenuti. Si bombardano di cose che comunque, per quanto non siano agite su di loro, ma sono comunque in buona parte traumatiche lo stesso. In ogni caso sono gli elementi di disagio montanti nel momento in cui c'è però un cambiamento, nel senso che l'espressione di una sintomatologia di disagio che cambia rispetto a prima implica che sta succedendo qualcosa adesso. Il caso che lei ha raccontato, come purtroppo molti dei casi che avvengono sui bambini, è cominciato molto presto, a 5 anni, è durato fino a 11 anni, proprio perché l'hanno fermato. Soprattutto i casi che iniziano su bambini prepuberi e su bambini piccoli sono quasi tutti in famiglia, sono quasi tutti a inizio anche abbastanza precoce e meno semplici da individuare di quanto non succeda in altre epoche della vita, e comunque con caratteristiche anche molto differenti. Quindi difficile, lei dice, individuarlo. L'importante però che gli adulti, che hanno questa grossa responsabilità, che abbiano figli o non ce li abbiano, insomma, di avere le antenne sempre piuttosto sensibili, sì, no? Nei confronti, esatto. Io direi che il tema grande è un po' quello di essere in contatto con i ragazzi, in ascolto, avere comunque gli occhi aperti senza voler essere, come dire, subito pronti a vedere cose terribili in ogni angolo della nostra vita, però anche insomma, pronti a cogliere segnali, a essere in ascolto, a farsi raccontare dai ragazzi cosa succede, anche capaci di osservare anche le persone a noi molto vicine con un occhio critico, perché purtroppo poi può succedere, e in alcune situazioni succede purtroppo, storie che si ripetono di generazione in generazione, come abbiamo visto, anche questo succede. Non dimentichiamoci questo aspetto, no? Il genitore abusante molto spesso è stato in qualche modo un bambino abusato a sua volta, lui. Giusto, appunto, perpetrando questo fenomeno terribile. Grazie, dottoressa Antonella Costantino, ricordo, presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Grazie, buona serata. A lei, arrivederci. Bene, tra poco cambieremo argomento, però vedo ancora un ascoltatore che dice: le mamme delle bambine è possibile che non vedano nulla. Marco da Sanremo è questo, anche se in questo caso, come spiegavo, la madre era separata da 5 anni, evidentemente la bambina andava un po' da uno o dall'altro, lei non se ne accorgeva, oppure stava con il padre, in certi casi anche succede. In molti casi molte donne sono schiacciate da questa cosa, in qualche modo sono conniventi, non vogliono denunciare o lasciare il marito, insomma sono veramente dei meccanismi molto complessi e diabolici. E poi invece c'è qualche ascoltatore che dice sempre molto sobrio Juncker, scrive un ascoltatore, non si firma, mettete anche un nome d'arte piuttosto. Beh, Juncker sappiamo che non ha peli sulla lingua, al di là delle critiche che si possono fare anche a lui stesso. E poi Sergio da Milano dice: ciò che mi preoccupa è questa ondata di consensi italioti nei confronti di un personaggio improponibile come Trump, dice Sergio. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ci sentiamo a momento. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, da qualsiasi parte del mondo lo stiate ascoltando, perché ci sono vostri messaggi dalle latitudini più lontane e più diverse. Roberta Giordano sempre con voi. Intanto stavo guardando anche i vostri messaggi sul programma di Trump, e un altro ascoltatore addirittura fa l'esegesi del suo nome, Mimmo da Teramo, che dice: traduzione di Trump, asso, briscola, giocare a briscola, tromba, trionfo, vincere, bravo uomo. Se il nome è un presagio, dice, nome uomo, auguriamoci che lo sia per il bene del mondo, anche un bravo uomo. Per giunta, aggiunge Donald, significa dominatore del mondo. Pace e bene a Donald. Staremo a vedere, Mimmo, se al nome corrisponde poi anche diciamo la fama e il destino. Ilaria dice: io spero che porti avanti una politica di distensione nei confronti della Russia. A mio avviso è stato miope cercare di isolare Putin, forse unendo le forze possono cercare di sbrogliare il guaio combinato in Medio Oriente e in Ucraina. Ora vi ricordo, se non avete acceso la radio puntualmente alle 21, quali sono i fatti principali della giornata. Stati Uniti, primi intoppi per Trump. Il presidente della Commissione europea Juncker afferma: ignora il mondo, con lui perdiamo due anni prima che lo conosca. Intanto proseguono le proteste negli Stati Uniti con 200 arresti. Il decreto sul terremoto, via libera all'operazione moduli abitativi al posto delle tende. Lunedì riapriranno le scuole ad Amatrice. Referendum scontro sugli italiani all'estero, con le polemiche sulla lettera di Renzi e sul rischio brogli. E poi processo P3, la procura chiede 4 anni per Verdini, chieste 18 condanne, 9 anni e 6 mesi chiesti per Flavio Carboni. Ostia, arrestato un quarantenne che abusava della figlioletta da 6 anni producendo anche materiale pedopornografico. Pordenone, una donna rifiuta di farsi riconoscere togliendo il niqab e scatta una multa da 30.000 euro. La scomparsa di Veronesi, oggi a Milano i funerali laici per l'ultimo saluto al grande oncologo. È morto Leonard Cohen, il maestro della poesia e musica, se n'è andato a 82 anni. Cina, record di acquisti online per la festa dei singoli, in soli 7 minuti speso $1.5 miliardi sulla piattaforma di e-commerce Alibaba. E adesso concentriamoci nuovamente sugli Stati Uniti, con le prime complicazioni istituzionali per Trump presidente. Intanto proseguono le proteste in varie parti degli Stati Uniti, in varie città sono oltre 200 gli arrestati. E intanto vedo adesso proprio una dichiarazione di Trump in questo momento, battuta dalle agenzie. Trump dice: dobbiamo unire il paese. Nel frattempo vi raccontavo prima delle dure dichiarazioni, il duro giudizio del presidente della Commissione europea Juncker nei suoi confronti, che ha detto non conosce il mondo, con lui perderemo due anni. Poi è arrivato anche il no del sindaco di New York a consegnare a Trump la lista degli immigrati illegali che vivono nella Grande Mela, e le tensioni anche con Obama sulla politica estera, perché lo staff di Trump ha avvertito lo staff di Obama dicendo: attenzione in questo suo ultimo tour europeo che non prenda delle decisioni in contrasto con quella che è la linea del nuovo presidente. Ma di tutto questo parliamo con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Mario, buongiorno, eccoci, buonasera. Roberta, eccoci qua. Senti, allora, Juncker, che insomma non gliel'ha andata diciamo, non ha problemi a dire quello che pensa e ha, come dire, criticato la competenza anche geografica, che non è solo quello ovviamente di Donald Trump, perché avrebbe detto: ti risulta in campagna elettorale il Belgio è un villaggio lì da qualche parte in Europa? Allora, Roberta, Donald Trump ne ha dette molte in campagna elettorale, e ben peggiori di queste. Di questi errori geografici, come che il Belgio può essere in Europa, ma sappiamo che alcuni da noi in Italia hanno fatto errori anche peggiori quando hanno confuso il Cile con il Venezuela. Dunque, certo, lui è presidente degli Stati Uniti. Quando Bush non ricordava i nomi, che ne so, del presidente della Birmania. Il problema non è quello, Roberta, il problema è che Trump ha fatto in campagna dichiarazioni molto aggressive sul piano dei valori, contro l'immigrazione, dichiarazioni sessiste. Ecco, c'è però in corso una cosa molto interessante, cioè Trump sta facendo una virata di 180 gradi. Tu hai citato quella sua dichiarazione sulle manifestazioni, si è morso la lingua perché prima ha detto queste dimostrazioni sono ingiuste e ci sono perché sono i media che le stanno fomentando, come se fosse ancora in campagna elettorale. Dopodiché ne ha fatto uno nuovo adesso, poco fa, questa mattina, in cui ha detto, ma insomma questi dimostranti li ammiro perché hanno passione per il loro paese, dovremmo lavorare insieme e riunirci. A questo aggiungi l'incontro con Barack Obama, le parole di apertura nei confronti di Hillary, cioè Donald Trump si sì, infatti vedevo, perdonami Mario, vedevo proprio Trump che adesso dice l'inchiesta su Hillary non è una priorità, perché c'era qualcuno del suo staff che diceva adesso indagheremo sulla fondazione, mi pare, Clinton, no? Era stata una delle prime cose dette in questi ultimi due giorni. Sì, lo ha detto già, quello che ti dicevo, lo ha detto l'altro giorno nel discorso post elezioni, ha detto Hillary dobbiamo rispettarla perché è stata una grande persona per lo Stato, un grande civil servant. Quindi Trump, che è un pragmatico, ha fatto una virata di 180 gradi. E allora arrivo al punto, Roberta, perché Juncker ha sbagliato. Non si capisce da che pulpito viene la predica, perché l'Europa è a pezzi sotto molti punti di vista. Nel momento in cui l'America sta cercando di, come dire, risanare la grande frattura che ha avuto questo paese e di cercare di farsi di dare un'interpretazione di questa rivoluzione politica che ha cambiato l'ordine politico, perché questo è successo martedì e lo stanno facendo insieme, non si capisce, è una gaffe. Ecco, secondo me quella di Juncker è stata una gaffe che dimostra che quanto indietro sia Bruxelles, dici, su molte cose. Senti Mario, c'è tra l'altro Danilo sulla pagina Facebook di Effetto Nota che dice sarà interessante assistere ai compromessi a cui gioco forza dovrà scendere Trump. Infatti vedo già che anche sull'Obamacare, che aveva detto sul sistema, sulla riforma sanitaria fatta da Obama con tanta fatica, aveva detto sarà la prima cosa da smantellare, ora vedo che dice invece sono disposto a salvare parte dell'Obamacare. Esattamente, lui ha fatto questa sua dichiarazione e in una intervista di cui abbiamo avuto notizia poco fa, che ha concesso al Wall Street Journal, la sua prima intervista da presidente, che è la prima intervista, in cui di nuovo esprime delle posizioni diciamo che puntano al centro, puntano al recupero del dialogo. Dovremo capire naturalmente quale Trump avremo. In qualche modo c'è stato un intervento molto interessante di Bernie Sanders. Bernie Sanders ieri ha detto io lavorerò con Donald Trump, quindi anche dalla parte estrema c'è una mano che si tende. Perché? Perché dice sulla questione delle infrastrutture, del miglioramento delle condizioni della classe media, su una serie di problematiche commerciali la pensiamo allo stesso modo. E dunque se lui vuole lavorare con noi, noi saremo pronti a lavorare insieme. Si sta formando una sorta di bipartisanship. Invece Sanders ha detto lo fermeremo se continuerà o se riproporrà, cosa che finora non ha fatto, posizioni contro gli immigrati, sessiste, razziste e così via, così via. Infatti Sanders, volevo solo ricordare appunto che era l'altro candidato democratico, no? Che poi è stato battuto da Clinton, che era molto più a sinistra di Hillary Clinton. Fra l'altro, a proposito di immigrati, notizia di oggi, no? Che il sindaco di New York, De Blasio, ha detto farò di tutto per non aprire a Trump il database di New York con le identità di oltre 850.000 immigrati illegali che vivono in città. Sì, non mi risulta che Trump abbia chiesto questa lista. È possibile che sia successo e mi sia sfuggito, ma è possibile anche che sia, come dire, un attacco preventivo come quello di Juncker da parte di De Blasio, il quale è posizionato molto a sinistra e quindi dice, tra l'altro condivide la città con Trump, quindi è come dire una presenza ingombrante. Non ti dico cosa succede sulla Quinta Strada, perché ormai è bloccata tutta davanti alla Trump Tower. Ormai c'è la sicurezza presidenziale, ci sono delle code, degli ingorghi pazzeschi, non so come ne usciremo, ma comunque Mario, questo è un coté. Senti, per chiudere, abbiamo ancora un minuto per dire quali sono i nomi che sembrerebbero più o meno sicuri per la sua squadra, perché mi sembra che anche lo staff che doveva guidare la transizione non sarà più guidato da Chris Christie, no? Ha cambiato nelle ultime allora, ore. Allora, questa è la notizia di oggi sulla squadra di transizione. Chris Christie ha difficoltà perché è un personaggio controverso, aveva strumentalizzato politicamente, abusato del suo potere forzando la chiusura di un ponte, o meglio l'avevano fatto i suoi uomini, questa cosa è diventata oggetto di inchiesta, sono state condanne non più tardi di qualche giorno fa e lui resta al centro di questa polemica. E quindi ha qualche guaio giudiziario. È stato sostituito, potrebbe averlo, per ora no, non è parte lui direttamente, è stato sostituito da Mike Pence. Sì, che è il vice di Trump. Mario Platero, ti ringrazio moltissimo da New York, grazie mille. I nomi verranno man mano nei prossimi giorni, adesso ci lasciamo perché c'è la viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, in pochi secondi ve le ricordo, ne abbiamo appena parlato, degli Stati Uniti, Trump riceve l'affondo di Juncker che dice ci farà perdere 2 anni perché non conosce l'Europa, intanto però lo staff di Trump avverte Obama e dice stop a nuove iniziative per quanto riguarda l'Europa, ma stanno uscendo moltissime dichiarazioni della prima intervista di Trump ai media, dice l'inchiesta su Hillary non è una priorità e poi dobbiamo unire il paese, per quanto riguarda l'Obamacare, la riforma di Obama sulla sanità, cercheremo di tenerne le parti migliori. E poi per quanto riguarda l'Italia, referendum e battaglia sugli italiani all'estero, polemiche sulla lettera inviata da Renzi e c'è qualcuno che teme il rischio brogli e poi c'è la firma da parte di Mattarella del decreto sul terremoto, via i moduli abitativi, i sindaci sono autorizzati alla messa in sicurezza, la priorità è rilancio economico. Europa 24 notte. Per quanto riguarda lo spazio europeo, l'Unione Europea riprenda la leadership della lotta ai cambiamenti climatici, questa è l'esortazione che si leva dalla COP22 di Marrakesh. Nell'anno più caldo mai registrato, a Marrakesh si sta svolgendo la COP22, la conferenza delle parti sul clima, dove si ragiona su regole, controlli e finanziamenti necessari al contenimento del riscaldamento globale, ben al di sotto dei 2 gradi centigradi al 2100, come si stabilì a Parigi un anno fa, con un'intesa che in poco tempo è stata approvata e ratificata in gran parte del mondo, ma che se non sarà finanziata e rifinita rischia di restare un manifesto. Maria Grazia Midulla del WWF Italia si trova a Marrakesh. L'UNEP l'ha ribadito poco prima dell'inizio di Marrakesh. Noi oggi con gli obiettivi attuali siamo oltre i 3 gradi di aumento medio della temperatura e con conseguenze veramente disastrose. Ed ora che gli Stati Uniti non si sa in che direzione andranno con Donald Trump, è più che mai necessario che l'Unione Europea riprenda la guida dei volenterosi. L'Europa dovrà avere di nuovo un ruolo di leadership. La cosa che veramente colpisce chi ha seguito tutti i negoziati da anni è come l'Unione Europea abbia sempre più assunto un ruolo a rimorchio. Anche sulla stessa ratifica dell'accordo di Parigi, a parte alcuni stati come la Francia che hanno ratificato immediatamente, ma gli altri sono andati molto molto lentamente, tant'è che si è dovuta poi creare l'escamotage della ratifica dell'Unione Europea e poi i singoli stati a poco arrivano. È una situazione che non potrà più andare avanti, perché per l'Unione Europea la questione del clima è una delle questioni degli assi centrali e lo stesso è anche parte della strategia di sicurezza energetica. L'Italia è rappresentata dalla delegazione dell'Unione Europea e non singolarmente, poiché non ha ancora ratificato l'intesa di Parigi. Ma saprà fare la sua parte, sostiene Antonio Navarra, che presiede il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. L'Italia, che è un pochino in ritardo, perché non ha ancora, però è inserita all'interno del contesto europeo, quindi comunque segue quello che è il percorso, no? No, ma l'Italia diciamo che sta seguendo, non mi sembra in particolare ritardo, sta attivamente partecipe al processo europeo, anzi con ruoli spesso propositivi e importanti, quindi penso che anche noi faremo la nostra parte, siamo pronti ovviamente a partecipare sia ai processi europei che a quelli internazionali, compresi i complessi meccanismi di climate finance, di finanziamento del clima, che servono per far partire le innovazioni tecnologiche per l'adattamento e la mitigazione delle emissioni. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ancora i vostri messaggi, c'è per esempio questo ascoltatore sulla tra la pagina Facebook di Effetto Notte, li sto leggendo, il 349-238-6666, dice a proposito di Juncker, non mi è simpatico Trump ma mi è meno simpatico Juncker, la Commissione Europea e i danni da moneta non sovrana all'euro ci hanno sottratto 100 miliardi all'anno, la crisi è dovuta a questo, dice Gabriele, poi altri messaggi nei confronti di che riguardano Juncker. Però adesso noi dobbiamo collegarci immediatamente, perché è tempo di sapere che tempo fa, con il nostro Paolo Corazzon di Trabimento. Caro Paolo. Buonasera Roberta, eccomi qua. Allora guarda, parliamo di un graduale miglioramento del tempo. E però ti conviene, c'è un aspetto, sì. Ecco, però c'è un aspetto molto importante che dobbiamo sottolineare, cioè nelle prossime ore fino a domattina nelle zone terremotate il tempo rimarrà brutto, ma più che altro parliamo addirittura di nevicate che nella notte e domattina potrebbero interessare appunto anche quote fino a 600-700 metri sull'Appennino e quindi coinvolgere appunto anche le zone terremotate. Però a partire poi da domani pomeriggio la situazione lì migliorerà, nel resto d'Italia invece già da domattina avremo un graduale miglioramento, quindi sarà un weekend tutto sommato discreto, a parte appunto per le zone terremotate fino al primo pomeriggio di domani. Anche domenica poi avremo sì il ritorno di qualche nuvola ma senza precipitazioni. L'unico altro aspetto da sottolineare è il freddo, perché in realtà ormai le temperature sono calate, rimarranno su questi livelli, quindi piuttosto basse nel primo mattino e anche nel pomeriggio non troppo alte. Però valori in realtà nella norma, a novembre è anche giusto che si raggiungano questi valori. A me non sembrerebbe giusto. In ogni caso è vero che il futuro del meteo è nelle previsioni di quartiere addirittura, sembra che sia emerso dal Festival della Meteorologia oggi a Rovereto. Allora guarda, comunque si sta cercando di raggiungere una precisione sempre maggiore. Ecco, forse arrivare al quartiere o alle vie sarà difficile, però negli ultimi anni la meteorologia ha fatto passi avanti. Però la gente pretende molto, questa è una cosa per noi difficile, cioè azzeccare sempre tutto. Giustamente, a un certo punto uno dirà davanti a casa mia che tempo farà tra 3 giorni e quello, perché poi ci si arriverà. Grazie Paolo Corazzone di Trevi Meteo, buon tempo Ciao, a te comunque tempo sia. A tutti. Ciao Paolo, noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.